e tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ristoradio Convento, sabato 27 ottobre del 2018, le 2:10 del mattino, siamo live, siamo in diretta. Bentornati da Master Nick in compagnia delle nuove generazioni che avanzano, e non è uno spot né promozionale né generazionale o politico, ma è la verità, perché abbiamo due rappresentanti, chiamiamole così, di un gruppo ben più nutrito, una quarantina se non mi sbaglio. 50. Addirittura 50, molto bene, che festeggiano i loro 18 anni, quindi la loro coscrizione anno 2000. Intanto cominciamo col presentarvi e dirci da dove venite. Allora, sono Alessandra, vengo dalla Valsassina e ovviamente ho 18 anni. Bene. Io sono Monica e vengo dalla Valsassina, più precisamente Prima Luna. Perfetto, 18 anni già compiuti o da compiere? Già compiuti. Sì. Allora, cominciamo a vedere quanto ne sapete del vostro gruppo. Chi è il primo a compierli e l'ultimo? Cioè, meglio, chi è? Quando soprattutto? Anche primo perché... è la sottoscritta Monica. Sono io. Sei la prima? A gennaio, esattamente. A gennaio? Quando? 4, vabbè, quindi chi ti batte? 4 gennaio, è tosta da battere. L'ultimo? E l'ultimo è Samuel Prada. Sì. Quando? 27 dicembre. Cavolo, anche lui tosto da battere. Vedi, 4 gennaio, 27 dicembre. Bene, bene, belli, esatto. belli distanti, però proprio agli antipodi, all'inizio e alla fine del calendario. E una cinquantina siete tantissimi. È la prima volta che vi trovate o vi capita più o meno annualmente di fare questo ritrovo? No, è la prima volta perché è tradizione che siano i 18 anni prima. Ah, ok, quindi diciamo che negli anni prima vi odiate a morte, no. Non vi parlate, non vi guardate nemmeno. Poi a 18 anni, come fosse una polvere magica, che l'amicite, diciamo così, vi viene questa voglia di diventare amici e di fare cose insieme. No, non è così. Allora, e come mai questa tradizione solo a 18 anni? Diciamo che ogni anno i ragazzi che fanno i 18 anni nella Valsassina vengono al convento. Ah, quindi, però, quindi è una tradizione per noi. Si è sparsa questa voce? Esatto, sì. È una tradizione, quindi ogni anno si viene qui a festeggiare. E quindi vedete anche un po' quelli più grandi con una sorta di invidia, di voglia di raggiungerli, di dire quando toccherà a me, quando toccherà a me. Però è solo una volta l'anno, sì. Esatto. C'è una cena l'anno. E di solito sempre a settembre-ottobre, più o meno questo sì, perché è il periodo. Quasi tutti hanno compiuto 18 anni. Esatto, esatto. Tranne Michel Paguro lì, come si chiama? Samuel. Il nostro amico Samuel. Che è povero, anche perché però dovevate beccare tra il 27 e il 31 di dicembre, esatto, per festeggiarlo in tempo, quindi non ce l'avreste fatta comunque. Cosa fate alla Valsassina? Immagino studiate, cosa per la precisione? Io ragioneria. E io grafica pubblicitaria. Ah, però, beh, insomma, due cose molto diverse, una più classica, tradizionale, una più al passo coi tempi. Avete già delle idee in testa di quello che vorrete fare? Magari tu un po' meno? No, io penso di fare medicina. Ah, però, da ragioneria a medicina, così un bel salto nel vuoto. Anch'io, da grafica a medicina. Davvero? Da grafica a medicina? Veterinaria. Ah beh, ok, veterinaria. Beh, già ti immaginavo aprire lo stomaco di uno e disegnargli con foto, cioè insomma disegnarglielo con Photoshop, aggiungergli delle robe nello stomaco. No. No, no. E come mai questa passione entrambe per la cura, uno degli animali e l'altra della persona? Anzi, facciamo così intanto. Tu, a parte medicina, hai già anche un'idea specifica o lo scoprirai strada facendo? No, penso di diventare cardiochirurgo. Così, una roba facile. Una roba facile. Facile. Poco responsabile, cioè poca responsabilità e poca pressione. Certo. Ok, ma studierete nella zona o vi sposterete? Avete già... A Milano. Dipende dove ci manderanno, in base ai test. Sì, beh, però la vostra idea è comunque essere anche pronte a spostarvi, perché immagino che nella vostra zona non sia così. E tu perché veterinaria da grafica? Perché ho sempre avuto, diciamo, questa passione per gli animali e mio papà mi ha tramandato, diciamo, sì, questa passione, e quindi vorrei fare veterinaria perché è sempre stato il suo sogno e i suoi genitori non gliel'hanno mai permesso, e quindi sarebbe una soddisfazione bello, personale. Bello. E tu come mai vuoi rimettere in moto i cuori delle persone? Non lo so. Guardando Grey's Anatomy. Beh, ma guarda, infatti lì volevo arrivare, immaginavo che no, era un po' quello l'habitat. No, in realtà c'è da quando sono bambina che penso così. Poi... Pensavo da quando sono bambina che apro cuori. No. No, no. Però mi piace, cioè mi piace sempre aiutare le persone. Bello. In questo modo. Ma veramente guardate Grey's Anatomy. E guarda troppe stagioni. Dai. Troppe puntate al giorno. Dai, fammi una battuta di Grey's Anatomy, 4 secondi, vai. No, no. Vabbè, tanto una te la ricordi. Cioè chiunque guardi Grey's Anatomy se le sa a memoria, quindi sicuro che una te la ricordi. Vai, interpreta. Non lo so. Dai. Oh. Una, dai, scegli che ti viene. Me, ama me, prendi me. Sì, esatto. Ho capito. Mettici cuore. Cioè, questa sembrava lista della spesa. Scegli me, ama me, prendi me. Vedi, perché sai che loro caricano molto ogni cosa che dicono. A proposito di televisione, tempo libero, come passate voi il vostro? Avete degli hobby? Avete delle cose che vi piace fare? Noi... Al di là di salvare persone e animali. Allora, giochiamo insieme in una squadra di pallavolo. Ah, bello. E... per il resto. Che ruoli avete? Io lo stesso posto. Ruolo. Quindi siete in guerra fratricida. Sì, esatto. Sempre. E anche sì. Questo test vedremo chi lo passa. Ruolo quale? Opposto. No, opposto, ok. E solo qui, beh sì, già abbastanza. Già con gli allenamenti, le partite di pallavolo, direi che vi occupa parecchio il tempo. E tornando al discorso di prima, che rapporto invece avete con tecnologia, serie TV? Siete dentro fino al collo o riuscite a gestirvi? Perché quelle delle vostre età più o meno sono quasi tutti invasati di serie, di quel sì, mondo lì. Io sono invasata. Sì. Cosa stai guardando adesso? Io ho circa la lista. La lista? Addirittura, cioè c'hai un no, promemoria sul telefono di quello che devi fare. Ma certo. Direttamente. Io guardo poche cose. Neanche dall'app di Netflix, è proprio da un blocco note. No, lei per ora ha passato tipo 3 mesi a guardare serie TV. Ma guarda che quella amica mia, io ti voglio veramente tanto bene, ma quella lista la finisce nel 2060. No, beh, ma è quasi tutta finita in realtà. Cioè... Ah, perché tu le spunti pure. Certo. E do anche i voti. E dai anche i voti per te stessa. Ma sì, pubblici. In 3 giorni finisco una stagione. No, io non sono. No, ma avete una vita o. No. Ah, ok. Io ho una vita, sinceramente. Io guardo Grey's Anatomy, X Factor. Ma e il contadino cerca moglie. Ma davvero? Cioè sei sul contadino che cerca moglie? Certamente. Ma guarda che è più o meno l'apice del trash, del più trash che più trash, vabbè, non si può. Trash come dire guardo donne. Il Grande Fratello. Io guardo uomini e donne. Tu guardi uomini e donne? Io no. Non siamo compatibili. Come fai a guardare uomini e donne? Cioè, ma che gusto ci provi? Ma fa ridere. Dov'è la realtà? Ah, ecco, fa ridere, perché ma di realtà ce ne può. Trash. Sì, invece di studiare guarda uomini e donne. E vabbè, dura un'ora. Esatto. Beh, io guarda, cioè proprio avrei una voglia di mettermi nelle mani di un cardiochirurgo che so che invece di studiare guarda uomini e donne, che proprio è mi dai una fiducia massima. Vabbè, ma per forza sto studiando una cosa che non mi piace. Ah, ok, quindi poi smetterai. Idem. Quando farai quello che ti piace smetterai. Va bene, va bene. Quali sono le ultime che avete guardato, quindi? Le ultime... Io X Factor. Che vabbè, non è una... Io Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Bene, bene. Ok, allora ragazze, io vi siccome vedo che vi chiamano anche, vi richiamano all'ordine e soprattutto gelose. In pista. Sono gelose, dici? Sì. Perché sì, volevano sì. Essere qui, siete state le prime. Cioè. Ma vedete, voi vi siete catapultate negli studi, un motivo ci sarà e avete fatto bene. E comunque loro arrivano dopo e questo no, è no, quello no, che conta. Ah, non entrano addirittura, glielo vietate. Glielo vietate assolutamente. Ok. Io intanto vi ringrazio, vi auguro un buona fine serata, un buon divertimento e soprattutto che entrambi i sogni e i desideri che avete, i progetti soprattutto che avete in testa, si possano e si riescano a realizzare. Grazie, grazie mille. Buona serata, ciao. Grazie.